vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 23 ottobre, il sole in regione sorto alle 7.31 e tramonterà alle 18.17. Martedì c'è luna nuova e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Lillo Montalto Monella. Negli ultimi mesi il prezzo del latte alla stalla è aumentato di circa il 50%, con quanto ne consegue per il consumatore, ma non basta ancora all'allevatore per chiudere bilanci almeno alla pari e si continuano a chiudere le stalle. Per la rubrica del biologico, oggi focus dedicato alle mele bio, tra clima che cambia e nuovi patogeni. A seguire il controllo della fermentazione alcolica nei mosti per avere vini sempre armonici, mentre con i forestali oggi parliamo ancora di funghi e delle normative che regolano la raccolta. L'andamento meteo di questi giorni, per certi versi anomalo, crea anche alcuni problemi che gli orticoltori devono affrontare e risolvere, soprattutto per la proliferazione di insetti, solitamente tenuti sotto controllo dal freddo. Particolarissimo lo spazio che dedichiamo alla gastronomia, con un prodotto una volta assai diffuso e variamente nominato, ma oggi abbandonato, il quincir, ovvero ricotta fermentata. In chiusura di puntata, andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo con un breve contributo di climatologia locale e il proverbio friulano della settimana. Negli ultimi mesi il prezzo del latte alla stalla è aumentato del 50%, passando dai 39-40 centesimi al litro ai quasi 60. Però non basta per sostenere il comparto. Perché? Lo chiediamo a Graziano Zanello della Commissione Camerale Lattiero Casearia. Quanto dovrebbe essere il suo prezzo per poter portare le stalle in equilibrio? Beh, direi 80 centesimi. Allora si ragiona in modo diverso. Ma perché non basta? Non basta perché purtroppo i costi per produrre il litro latte sono aumentati notevolmente. Negli ultimi giorni tutti parlano dell'energia, però bisogna aggiungere i mezzi tecnici, bisogna aggiungere il costo dei mangimi, il costo della ricambistica dei nostri trattori, di tutte le attrezzature che fungono per produrre il litro latte. Ed è vero che c'è qualcuno che sta chiudendo le stalle anche in questi giorni? Purtroppo sì, è una nota dolente, si chiude perché non c'è marginalità. Nonostante il latte delle Friuli Venezia Giulia sia una eccellenza a livello nazionale, continuiamo a patire concorrenze anche spesso sleali. Certo, la colpa è un po' nostra. Abbiamo perso dei treni, in particolar modo quello della valorizzazione del prodotto. E per quanto riguarda gli addetti al settore, c'è un po' di ricambio? C'è qualcuno che ci vuol in qualche maniera investire ancora sopra oppure ormai è a perdere? Purtroppo i giovani faticano a fermarsi, perché il giovane, se non vede redditività con tanto lavoro, dice anche no. E per quanto riguarda la prospettiva nel breve periodo, quali sono gli scenari? Dobbiamo essere fiduciosi, aver coraggio, andare avanti e fare in modo che quelle poche stalle che ci sono rimangano, e quindi, se vogliamo, il futuro ce lo creiamo e può essere anche positivo. Il ruolo della politica, il ruolo del governo che verrà? Come tutti i governi, un ruolo fondamentale. Devono capire di aiutare questo settore. Gli strumenti ci sono, basta solo la volontà. Il biologico pare essere una delle armi vincenti. Sta ancora trainando o si sta fermando anche quello? No, traina. È un settore vincente sicuramente. Bisogna fare attenzione a utilizzare quella leva in modo intelligente. Io dico non tutti bio, perché ci vuole una parte convenzionale, una parte biologica, in modo da tenere in equilibrio i mercati. Poi, per chi ha sensibilità a pensare all'ambiente più sostenibile e più ecocompatibile, è un'arma importante. Il settore della nostra regione è ancora preda delle multinazionali, da quelli che da fuori fanno il bello e cattivo tempo anche qui da noi? Purtroppo sì, anche perché il latte, sanno le multinazionali che il latte friulano è buono, quindi appetibile, arrivano, prendono e poi fanno di noi quello che vogliono. Per Per la rubrica del biologico, oggi Cristina Micheloni si occupa di mele, tra clima che cambia, nuovi patogeni e un mercato globale. Leggendo gli ultimi dati statistici presentati dal Ministero a settembre, ci risulta che in regione il settore del bio coinvolga più di 1.100 operatori su una superficie coltivata di qualcosa di più di 21.000 ettari, lontani da quel famoso 25% di SAU al 2030, ma con una continua e costante crescita e un balzo a due cifre percentuali negli ultimi due anni. Tra le colture più rappresentative della regione c'è sicuramente il melo, soprattutto da consumo fresco, ma anche da trasformazione in succo, sidro, aceto, frutti essiccati, purea, insomma varie cose. Ma è difficile coltivare il melo con il metodo biologico? Possiamo dire di no, che è anche relativamente facile. Ovviamente se si fanno le scelte giuste in termini di scelta della località di coltivazione, di preparazione e gestione del suolo e di costruzione dell'infrastruttura ecologica dentro e attorno all'azienda. Dal punto di vista sanitario, il cambiamento climatico sta alleggerendo il peso dei patogeni, ma rendendo meno prevedibili i problemi legati agli insetti. Ma andiamo per ordine. La ticchiolatura la possiamo dare per gestibile, tra varietà resistenti e l'uso oculato del polisolfuro di rame ce la caviamo. L'oidio si può gestire con una certa tranquillità con lo zolfo, ma anche con diversi nuovi induttori di resistenza e agenti di biocontrollo, qui le novità sono diverse. La cimice rimane un problema, come nel convenzionale, ma in diminuzione, sia per l'uso delle reti, ma soprattutto grazie alla massiccia parassitizzazione da parte di diversi insetti, non solo della vespa samurai, e qui l'infrastruttura ecologica gioca un ruolo chiave. L'afidella nigero è in aumento preoccupante nel convenzionale, mentre in bio, sempre grazie a quell'infrastruttura ecologica e all'uso oculato dei prodotti di difesa, un buon livello di parassitizzazione da parte della Felinus mali è una garanzia. Quest'anno le alte temperature di inizio estate hanno fatto sì che la parassitizzazione iniziasse molto presto e fosse di conseguenza anche efficace, molto efficace. La carpocapsa, sinora gestita con tranquillità direi, soprattutto attraverso la confusione sessuale, ha ora qualche incertezza legata al tipo di metodo, ma soprattutto ai tipi di erogatore, ma diciamo che sono dei piccoli incidenti di percorso che vanno studiati ed affrontati. I funghi secondari come le fumagini, in anni come questo appena concluso, non sono un problema grazie alle temperature e la mancanza di pioggia, ma non bisogna abbassare la guardia. Vabbè, allora tutto bene? Facile fare il melo bio? C'è una cosa che preoccupa e che inizia a preoccupare in modo anche un po' più serrato, che è il fatto che il mercato si sta facendo sempre più globale e di conseguenza imprevedibile e totalmente disgiunto da dinamiche locali e da fattori di qualità. Come al solito chi vende direttamente va meglio, ma la quantità di mele bio prodotte in regione devono trovare anche altre strade, per percorrere le quali l'andar da soli non è sempre semplice né sicuro. Di tutto questo, ma anche di altro legato alla frutticoltura biologica, parleremo il 25 ottobre presso l'azienda De Munari a San Vito al Tagliamento e alla pagina Facebook della trasmissione lascio il link con tutte le informazioni. Il controllo della fermentazione alcolica è il titolo dell'intervento di oggi del professor Roberto Zironi per la rubrica del vino. Una volta che il lievito del pied de cuve è stato aggiunto alla massa da fermentare, impiegherà alcune ore per adattarsi al nuovo ambiente di fermentazione. Ma trascorso questo tempo, per effetto dell'aggiunta dello starter, nel mosto avremo attive 3-4 milioni di cellule per millilitro. Questa biomassa realizzerà rapidamente la dominanza sulla popolazione microbica naturale del mosto, che presenta normalmente una numerosità di 10-20 volte inferiore. Dopo la prima fase di adattamento, la fermentazione proseguirà quindi con un ritmo regolare e con un tasso di consumo degli zuccheri che sarà inversamente proporzionale alla temperatura stessa. Il controllo della fermentazione si realizza attraverso la misura indiretta del consumo degli zuccheri mediante un densimetro. Il mosto in fermentazione riduce progressivamente la sua densità in proporzione agli zuccheri in soluzione. Il controllo della densità permette soprattutto di accorgersi se questa rallenta o si blocca prima di aver esaurito tutti gli zuccheri fermentescibili del mosto. Se il decorso fermentativo devia dal suo andamento tipico, può darsi che il lievito sia in una situazione di stress e gli enologi aggiungono dei nutrienti azotati, come sali di ammonio derivati del lievito, ricchi di aminoacidi e lipidi di membrana, ossigeno necessario per la sintesi di acidi grassi insaturi e steroli, e mantengono la temperatura in un intervallo, tipico per ogni ceppo, ottimale per lo sviluppo del lievito. Per monitorare ed evitare l'insorgere di questi stress fermentativi, si effettua inoltre un'analisi sensoriale del fermentato. La carenza di azoto assimilabile di ossigeno comporta nel lievito una deviazione metabolica con produzione di acido solfidrico. Prima di manifestarsi come difetto organolettico olfattivo, la produzione di acido solfidrico, anche in piccole quantità, comporta un effetto di copertura di questo composto sugli altri aromi fermentativi. Quindi il mosto in fermentazione perde la sua fragranza olfattiva ed appare con aromi poco intenso, addirittura deodorato. Questo è un sintomo che ci avverte precocemente dell'incipiente stress metabolico del lievito, un campanello d'allarme per permetterci di correggere le deficienze nutrizionali del mosto in fermentazione. Oltre all'analisi sensoriale, il mosto in fermentazione viene periodicamente sottoposto ad un controllo chimico dell'acidità volatile, che esprime in massima parte la concentrazione di acido acetico presente nella soluzione. Questo acido si forma durante la fermentazione e la produzione di acido acetico può aumentare se il lievito opera in condizioni di stress o anche se la fermentazione è condotta non solo dai lieviti saccharomiceti, ma anche da altri lieviti e batteri inquinanti in mezzo di fermentazione. La sua quantità deve rimanere molto bassa, perché il suo forte sapore acre e il suo odore caratteristico acetoso, dato dal legame tra questo acido con l'alcol etilico, compromettono enormemente la qualità del vino. La scorsa puntata, nella rubrica dei forestali, avevamo parlato dei funghi e di come la Guardia Forestale sia in prima linea. Oggi entriamo in tutto quello che il raccoglitore deve sapere per non incappare, appunto, nelle maglie della forestale. Il forestale Dario Di Gallo. La legge regionale prevede in linea generale che la raccolta dei funghi sia possibile disponendo dell'autorizzazione alla raccolta, il tesserino, di un documento di identità valido e della ricevuta del versamento, la cui quota varia a seconda della zona in cui si intende esercitare l'attività medesima. Per finalità di carattere turistico è poi consentito ai residenti e non residenti in regione di esercitare la raccolta senza autorizzazione per un periodo di massimo 5 giorni all'anno. In ogni caso il quantitativo ammesso al prelievo è nel limite dei 3 kg al giorno pro capite. I funghi vanno poi puliti sul posto e trasportati in contenitori areati. Nel dettaglio, l'autorizzazione, il tesserino, ha validità permanente su tutto il territorio regionale ed è rilasciata dalle comunità di montagna e dagli enti di decentramento regionale alle persone che abbiano compiuto 16 anni e che abbiano superato la prova orale presso gli ispettorati micologici. Sono esentati dalla prova i micologi attestati e i possessori di autorizzazioni conseguite in altre regioni. L'importo da pagare è uguale per i residenti e non residenti ed è stabilito in 60 euro per la raccolta in tutta la regione, 25 euro per una comunità di montagna, 20 euro per un ente di decentramento regionale e 10 euro a giornata per i permessi turistici. Come anticipato, per incentivare l'offerta turistica, la raccolta è consentita a residenti e non residenti entro un limite massimo di 5 giorni anno anche senza autorizzazione, purché si siano compiuti i 16 anni, si abbia la ricevuta del versamento di 10 euro al giorno, oppure senza versamento se si pernotta almeno 3 notti consecutive in strutture turistiche o se si è associati o a un gruppo micologico. In caso di dubbio o casistica particolare è possibile rivolgersi presso le stazioni forestali distribuite su tutto il territorio regionale per avere le informazioni necessarie. L'andamento meteorologico anomalo di questi giorni, se da un lato è favorevole alla vegetazione in orta, dall'altro crea anche qualche problema. Quali e come contrastarli ce lo spiega Sara Bosco nella sua rubrica dell'orto. Oggi vorrei soffermare l'attenzione un po' sull'evoluzione del clima in questo periodo nella nostra regione. Le temperature molto alte, che sono anomale per questo periodo, possono portare a diversi problemi anche nel nostro orto. Da una parte abbiamo le colture estive che continuano a crescere e produrre, assicurando anche ancora un buon raccolto, ma dall'altra si innescano delle situazioni negative. Tra le più dannose troviamo la proliferazione di insetti, che con il freddo generalmente attenuavano la loro attività fino a bloccarla. Poi c'è anche l'insorgenza di altri agenti patogeni come i funghi e il capovolgimento, diciamo, delle organizzazioni dei raccolti, perché molte colture crescono a ritmi molto più veloci di quelli attesi e quelli che si sono compiuti negli anni precedenti e quindi portando a un raccolto molto anticipato. Quest'ultima caratteristica può causare anche dei danni alle colture quando si presenteranno le basse temperature e infatti se non si presentano nelle fasi fenologiche adeguate queste possono portare anche alla morte della pianta. Per questo motivo è importante monitorare il nostro orto per evitare che insetti, funghi o il freddo possono danneggiarlo e intervenire tempestivamente. Oltre alle temperature, un altro fattore che preoccupa notevolmente è la scarsità di acqua che arriva al terreno mediante le precipitazioni. In molti territori il terreno, tolti i primi centimetri, si presenta ancora molto asciutto, nonostante le precipitazioni delle scorse settimane. In questo caso bisogna cercare di minimizzare le perdite di acqua del terreno, che possono avvenire mediante evaporazione, utilizzando la pacciamatura e cercando di impiegare delle colture che necessitano di un apporto idrico ridotto. Questo periodo non è ospitale per coltivazione di molti ortaggi, però bisogna adattarsi all'evoluzione climatica affinché si possa ricreare un equilibrio che permetta di preservare il nostro territorio. Quincir, squete frantes, lana scuta, scuta tastara, tanti nomi per una preparazione tradizionale, oggi negletta, che consisteva nella fermentazione della ricotta. Oggi Roberto Zotter la presenta con un taglio storico. La prossima puntata, il gradito ritorno di Lucia Pertoldi per la sua preparazione. Alla ricerca di processi alimentari perduti da preservare, mi sono imbattuto nella fermentazione, che ha quasi del tutto perso la sua funzione di processo di conservazione. Oggigiorno tutti hanno accesso a prodotti freschi e alla possibilità di conservarli in frigo o in freezer. Ultimamente però c'è una rinascita della fermentazione, non per conservazione, ma per salute o gusto, sulla spinta della nutraceutica e di alcuni chef famosi che l'adottano perché affascinati dalla sua capacità di donare alle pietanze un'unicità di aroma e sapore. D'altronde, alimenti fermentati come pane, yogurt, formaggio o bevande come vino o birra sono parte della nostra alimentazione quotidiana da centinaia d'anni. Nella nostra tradizione è ancora viva la produzione di crauti e brovada, mentre è quasi scomparso l'uso di fermentare la ricotta. Questo processo permette alla ricotta di cambiare consistenza e colore. Man mano che il tempo di stagionatura passa, la ricotta diventa sempre più cremosa e tende al giallo con un odore davvero penetrante, raggiungendo il suo inequivocabile sapore intenso, sapido e piccante. Conosciuta anche come ricotta salata, ricotta acida e ricotta forte e chissà con quanti altri nomi in giro per l'Italia, per definire questo latticino frutto di un'antica e quasi abbandonata tecnica di trasformazione che permette alla ricotta, prodotta in malga durante la stagione estiva ed estremamente deperibile, di conservarsi a lungo ed essere consumata fino alla primavera successiva. Nel Canal del Ferro e Val Canale è conosciuta come Quincir o Squete Frante o Slana Scuta, riconosciuta dalla regione come prodotto agroalimentare tradizionale. La contessa Perusini, nel suo celebre Mangiar e Ber Friulano, nel capitolo dedicato ai piatti caratteristici e alle vivande di gusto spiccatamente popolare, in genere decaduto in disuso, riporta la ricetta dei primi dell'Ottocento della contessa Gemma di Caporiacco Nais e scrive: «Il quincir è fatto con la ricotta fresca messa in un recipiente con sale e pepe, si rimesta aggiungendovi latte e si lascia in riposo per alcuni giorni. Dopo si rimesta ancora e se occorre vi si aggiunge sale e latte, si pressa e si lascia a riposo per una settimana prima di mangiarla. E se era, aggiungo io, già caduta in disuso il secolo scorso, immaginiamoci oggi che è praticamente introvabile. E così non rimane che rimboccarsi le maniche e ritornare all'antica pratica del fasin besoi. Ma poiché Giul Mistir a Falquincir, ho chiesto a Lucia Pertoldi di venire qui a raccontarci come farlo. Buon appetito!» E con Amos D'Antoni, l'andamento dei mercati agricoli in regione. Mercato poco attivo, con prezzi stazionari. Venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 34,80 e 35,10 euro al quintale, IVA esclusa, il frumento tra 36,10 e 36,60, l'orzo, peso specifico 62,65, tra 31,40 e 31,90 e la soia tra 60,30 e 60,80. Rispetto ad un anno fa, il mais è aumentato di 7,50 euro il quintale, la soia di 2,20 euro. Stabile l'andamento dei bovini a macello. Le vacche fine carriera di prima qualità sono pagate a peso morto fra 3,20 e 3,70 euro il chilo, IVA esclusa. Quelli di seconda fra 2,60 e 3,20. Pressoché stazionari anche le contrattazioni nel settore dei vitelli da ristallo, dove i bluebell gamaschi vengono quotati tra 6,6 e 50 euro il chilo, IVA compresa. I pezzati rossi fra 4,30 e 4,70. I frisoni fra 1,80 e 2,10. E i bruni alpini tra 1,50 e 1,70. Mercato con dinamiche ancora rivalutative nel comparto suinicolo, con i lattonzoli di 20 kg quotati franco partenza a 3,35 euro il chilo, IVA esclusa, i grassi da macello a 2,05 il chilo. In buona evidenza il settore caseario, dove la commissione camerale di Pordenone e Udine ha quotato il montaggio di 90 giorni tra 8,30 e 8,70 euro il chilo, IVA esclusa, quelli di 4-6 mesi tra 9,40 e 9,70, con marchio di qualità tra 10,40 e 10,70, lo stagionato 12-15 mesi tra 9,70 e 10,10. Migliora anche il prezzo del latte crudo di vacca di origine Friuli Venezia Giulia, quotato franco stalla tra 56 e 58 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Infine, scambi attivi con prezzi in aumento nel settore degli avicunicoli. Il valore dei poliaterra varia tra 1,59 e 1,61 euro il chilo, IVA esclusa. Le anatre tra 3,66 e 3,70. I tacchini maschi tra 2,15 e 2,17. Le femmine tra 3,70 e 3,80. I conigli oltre 2,5 kg a 2,89 e 2,95. Le uova oltre i 73 grammi provenienti da allevamenti a terra sono a 22 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA Arturo Puccillo diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante, più un breve contributo di climatologia locale. Con l'inizio di ottobre sulla regione torna la stabilità atmosferica, grazie al prevalere dei flussi settentrionali rispetto a quelli meridionali in quota. Le prime giornate vedono variabilità con temperature nella norma e il 3 sole più deciso e massime sui 25 gradi in pianura, mentre rimane un po' più fresco sulla costa dove il mare presenta circa 20-21 gradi. Successivamente una rimonta dell'anticiclone caldo in quota crea inversione negli strati medio-bassi, che per un paio di giorni rimangono più freschi e umidi, mentre lo zero termico sale a 4.000 metri circa. Ciò conferisce all'atmosfera una marcata stabilità, mentre permette la formazione di inversioni termiche, che quindi intrappano l'umidità nei bassi strati. Dopo il 10 il cielo è poco nuvoloso variabile, con più sole in genere su pianure coste e più nubi sui monti. Le temperature massime sono alte per il periodo. Il giorno 11 sfiorano i 25 gradi in pianura. Bel tempo e molto mite accompagnano anche le giornate dal 17 al 19 con temperature massime sui 25 gradi. Il mare rimane costantemente sui 21 gradi e quindi oltre i record storici stagionali. L'unico elemento significativo è la nebbia, che di notte tende a formarsi sulla bassa pianura, con locali sollevamenti a formare uno strato di nubi basse. Il pomeriggio del giorno 19, una giornata particolarmente bella, le temperature massime in pianura superano localmente i 27 gradi. Il record di caldo per ottobre nella seconda decade è di 28 gradi e nella terza decade di 27. Si è andati quindi su un valore estremamente elevato, tanto da insidiare i record storici. Il 20, aria più fresca da est nei bassi strati, fa scendere le temperature massime, anche perché c'è maggiore nuvolosità negli strati medio-bassi. La seconda decade di ottobre quindi è decisamente più calda della norma, oltre 2 gradi. È completamente asciutta. Il mese continua a essere caldo e secco, quasi un prolungamento dell'estate, con le sue peculiarità del 2022. Vedendo le previsioni, la settimana inizierà con correnti sud-occidentali umide e un fronte tra lunedì e martedì. Cielo nuvoloso quindi e piogge, specie nella notte. Sarà possibile anche qualche temporale. Le temperature rimangono oltre la norma, con zero termico a quasi 4.000 metri. Mercoledì si afferma nuovamente l'anticiclone africano, con aria più secca a tutte le quote, eccetto i bassissimi strati, dove di notte si potrà formare qualche nebbia. Grazie all'assenza di nubi, le temperature minime scenderanno anche sotto i 10 gradi in pianura. Anche tra giovedì e il prossimo fine settimana prevarrà l'alta pressione, con assenza di precipitazioni, cieli in prevalenza sgombri dalle nubi, relativamente fresco di notte e di mattina. Temperature miti e ben oltre la norma di giorno, costantemente oltre i 22 gradi. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un altro proverbio friulano dedicato al tempo e al calendario. San Simon al quarte vie la collezione si mangia dos volte sin di. Letteralmente San Simone il 28 ottobre porta via la colazione, si mangia due volte al giorno ed è da riferire all'accorciarsi delle giornate. D'estate, con le giornate lunghissime e la sveglia verso le 4, c'era tempo anche per la colazione. Ora non più. Ma se avete altre interpretazioni, fatecelo sapere. Coordinamento tecnico